2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 29 e 30 dicembre 2012, sicuramente l'ultima puntata dell'anno di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, bentornati o benvenuti a 2024, il primo programma alla radio in Italia che si occupa di tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. In questa puntata tracceremo alcuni punti sul calendario del 2012, parleremo delle tecnologie che ci sono piaciute, quelle che invece non ci sono piaciute, quindi dei successi, ma soprattutto, visto che sono stati molti quest'anno, degli insuccessi, anche con il contributo dei nostri ascoltatori, e sicuramente verso la fine della trasmissione tracceremo alcuni punti, o meglio, vi daremo alcuni spunti su alcune tecnologie che vedremo e cominceremo ad utilizzare nel corso del 2013. Potete utilizzare la nostra pagina Facebook, dove ci sono già alcuni messaggi, e potete utilizzare anche Twitter, @ e _ Pagliarini. E invece Gianfranco Giardina ha fatto l'inverso di me, cioè Giardina _ G. Esatto, quindi potete utilizzare anche questi messaggi. Fabio Cantadori si occupa della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini e con me c'è Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, che si occupa di tecnologia a 360 gradi, e direi che nel 2013, non so se è corretto dire lancerete o comunque amplierete tutta la vostra attenzione su automobili e elettrodomestici. Ho sbagliato a dire? No, non è sbagliato. Giusto. A dire, cioè, no, credevo automobili... che non si potesse dire, no, magari, no, per quello che attiene la parte elettronica. Certo. Tutta l'elettronica di bordo, che ormai è sempre più rilevante e deve essere sempre più integrata con i device mobili, quindi tutto quello che viene dato normalmente in dotazione dalle case, e anche i sistemi intelligenti che ormai aiutano e assistono l'autista nella guida. Questo sul lato automotive. Non a caso al prossimo Consumer Electronics Show di Las Vegas le case automobilistiche che esporranno, parliamo del Consumer Electronics Show, saranno più di 10. Quindi questo è un segno evidentemente che il mondo automobilistico ha nella parte elettronica oramai un elemento importante per indirizzare la scelta di un modello piuttosto che un altro da parte del consumatore. Quindi è un ambito dove sicuramente serve maggiore informazione e dove pensiamo che magari anche i più strenui appassionati di motori magari abbiano bisogno di un minimo di alfabetizzazione, perché evidentemente vengono da BL pistoni di cui sanno tutto, ma magari di microchip. Ci sono delle automobili che già oggi montano il Tegra 3 come processore, quindi lo stesso processore che troviamo nei tablet o negli smartphone, quindi che non serve per far andare l'automobile, per muovere l'automobile, ma serve per gestire tutta la centrale elettronica, neanche la centralina di controllo del motore, no, ma la centrale elettronica che governa tutto il sistema di intrattenimento, tutti i display di bordo e tutta la navigazione, le mappe, internet eccetera. A bordo, eccetera. Ecco, sicuramente nelle automobili vedremo sempre più spesso, già dal 2013, ma sempre più nei prossimi anni, internet a bordo, e questo cambierà molte delle dinamiche, anche se vogliamo, visto che questo è un tema che ci tocca da vicino, l'ascolto della radio in automobile, perché se uno ha la possibilità, schiacciando un tasto, di ascoltare il podcast di 2024, adesso non ci sarà mai il tasto con scritto 2024, però no, potrebbe essere un tasto digitale, nel senso, certo, sul display, sì. Se uno è appassionato, certo, di 2024, configura per avere l'accesso rapido ai podcast di 2024, che se sono già stati scaricati sulla macchina sono già disponibili, anche se siamo in galleria non siamo in copertura, se no semplicemente viene scaricato in pochi secondi e poi viene ascoltata un'ora e mezza di trasmissione, sì. Un'ora di trasmissione. Grazie magari alle reti 4G, e questa è un'altra delle parole che segniamo per il 2013, perché sì, abbiamo già visto qualche cosa, però adesso si sta scherzando. Sì, per adesso siamo alle prime sperimentazioni, alle prime città, alle prime frequenze. Sì. Nel 2013 avremo il grande lancio di 4G e io spero e mi auguro, e questo lo mettiamo nel libro dei desideri, no? Anche con tariffe che non siano così penalizzanti, diciamo, come quelle di oggi per chi vuole navigare più velocemente. In fondo, in tutto lo schema di tariffazione della navigazione mobile fino ad oggi è stato tariffato il traffico, quindi paghiamo i gigabyte di traffico che facciamo al mese. Se li facciamo più veloce, beh, avremo bisogno di piani più generosi, evidentemente. Ecco, però pagare sia il traffico sia la velocità sembra un po' sì. Pagare due volte. Beh, sicuramente, sicuramente possiamo dire con tranquillità che i piani e la tariffazione che è stata associata a questi piani in queste ultime settimane, con questi primi lanci commerciali in alcune città italiane, sono piani che in qualche modo, non dico che proprio scoraggino l'accesso a questa tecnologia, però è come dire sì, la tecnologia c'è, ce l'abbiamo, quindi l'abbiamo lanciata. Quando si va alle conferenze, quando si dice che gli operatori telefonici hanno lanciato la tecnologia, sì, l'hanno lanciata, però sicuramente queste tariffe non è che agevolino molto. Beh, ma come la diffusione, come dico spesso, le tecnologie hanno bisogno di anni per essere inventate e poi distribuite sul territorio, mentre le tariffe si cambiano in una notte. Quindi l'importante è che la tecnologia ci sia e poi aspettiamo per le tariffe. Esatto. Senti, prima di parlare del 2013, che tu dicevi poco fa che è facile, poi bisogna vedere poi se uno ci prende. Prima di parlare delle tecnologie che vedremo arrivare nel corso del 2013, beh, divertiamoci un po' a ricordare quello che abbiamo visto, sia per quanto riguarda i successi che gli insuccessi del 2012. Direi che molte testate, e anche voi, anche su D-Day, vi siete divertiti a farlo, hanno fatto la classifica dei maggiori fallimenti. Poi magari citiamo anche non solo i fallimenti. Poi ricordo agli ascoltatori che se ci vogliono scrivere un SMS, un tweet o un messaggio su Facebook ricordandoci le tecnologie che hanno visto e magari che sono piaciute, che hanno cominciato ad utilizzare nel corso del 2012, beh, ben venga, quindi poi noi lo utilizzeremo nella nostra chiacchierata. Posizione numero 10. Non so se l'avete messo in fila. No, non l'abbiamo messo in fila, abbiamo fatto una classifica proprio in questo senso. Ma io magari, parlando del 2012, partirei in quello che noi abbiamo considerato un fallimento del 2012 e che consideriamo una promessa del 2013. Così sembra date che un siamo, po' di speranza. Sembra che siamo contraddittori, sì. No? E parliamo dell'OLED. L'OLED, L'OLED è una nuova tecnologia per i display, vista e rivista alle fiere internazionali, nei prototipi. L'abbiamo raccontato più volte anche da questi microfoni, una qualità di immagine incredibile, mai vista, un nero profondissimo, tutti i vantaggi del vecchio tubo catodico, se vogliamo semplificare, con tutti i vantaggi dei display piatti, con tutti i vantaggi di un display a basso consumo. Quindi è una cosa fantastica. Abbiamo visto, soprattutto ad opera di Samsung e LG, dei prodotti proposti come finali. LG addirittura a maggio, lo scorso maggio, ha fatto un galà a Monte Carlo di lancio dei prodotti con il quale abbiamo partecipato, abbiamo fatto anche il coverage in diretta dell'evento, con dei prodotti apparentemente finiti. Sono arrivati anche sul mercato i primi annunci di posizionamento di prezzo, seppur vaghi, di questi display 55 pollici che oscillavano tra i 7 e i 9 mila euro, quindi comunque molto costosi. Fatto sta che questi TV non sono mai arrivati. Per questo noi parliamo di epic fail in questo caso, perché è stata fatta una promessa al mercato, una promessa non mantenuta. Non mantenuta, si dice, per ancora importanti problemi di difettosità in termini di produzione. Si dice perché probabilmente anche la congiuntura internazionale non consigliava il lancio in questo momento di un prodotto così costoso. Certo è che lanciare il sasso e poi nascondere la mano porta tutti i difetti, cioè tutti i problemi di un annuncio fatto, quindi magari qualcuno che voleva cambiare TV dice no, io aspetto l'OLED, l'uscita dell'OLED, e poi siccome l'OLED non esce, ovviamente questa attesa viene frustrata, il nuovo TV non viene comperato, il mercato si ferma ancora di più, quindi certo, con noi siamo bravissimi perché andiamo in onda a fine anno e quindi facciamo il resoconto, col senno di poi, diciamo, nessuno avrebbe dovuto parlare di OLED, sì, certo. Nessuno avrebbe dovuto mostrarli alle fiere. Però effettivamente è incredibile come aziende gigantesche con, non dico persone, squadre di persone che pensano a come passare i prodotti dalla sperimentazione, dai laboratori alla produzione, poi al mercato, sbagliano così. Dipende quali sono gli obiettivi. Molte volte scopriamo che in queste multinazionali gli obiettivi sono più interni di mercato, cioè che dove un player marca stretto l'altro player. E vuole anticipare magari un annuncio per far vedere che arriva prima su quella tecnologia, piuttosto che una logica di mercato vera e propria. Bene. Indirizzata. Questo è uno degli epic fail del 2012. Attenzione che se andiamo avanti così occupiamo tutta l'ora a nostra disposizione con quello che è successo nel 2012, al quale però aggiungo, non so se dire fallimento o no, perché dovremo vedere poi nel corso del 2013 cosa succederà. All'inizio dell'anno l'ICANN, che governa la rete internet, annunciava un nuovo dominio, una liberalizzazione dei domini su internet, e nascevano, e li vedremo tra qualche mese, i siti con i brand. Ad esempio la Fiat si è preso un sacco di domini, e quindi vedremo ad esempio panda.fiat. Questa è una delle cose che sono successe nel corso del 2012. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Tra le cose da ricordare del 2012, alcuni acronimi: SOPA, ACTA e ITU. Allora, ricorderete questi due provvedimenti di cui abbiamo parlato tantissime volte. C'è stata una battaglia in alcuni paesi europei, addirittura la gente è scesa in piazza a manifestare, e anche negli Stati Uniti. Allora parliamo di due provvedimenti, SOPA e ACTA. SOPA negli Stati Uniti, ACTA un po' in tutto il mondo, ma se ne è parlato molto in Europa, che in qualche modo, almeno secondo una parte degli esperti della rete internet, avrebbero minacciato la libertà della rete. Di questi temi, questi due provvedimenti sono stati cancellati, sia SOPA negli Stati Uniti sia ACTA, che è stato abbandonato proprio dal Parlamento europeo. E se ne è parlato anche recentemente a Dubai, alla mega conferenza, al mega summit organizzato dall'ITU, e anche in quel caso la firma che è stata proposta alla fine di questo mega summit è stato sostanzialmente un grande fallimento. Cosa da ricordare nel 2012? Aggiungo due parole: agenda digitale. Quante volte abbiamo sentito parlare di agenda digitale, che è uscita un po', diciamo, forse nemmeno a metà, è uscito un quinto di quello che era stato proposto. Più che altro mancando ancora qualsiasi forma di regolamento attuativo che poi i ministeri, nuovi governi, il nuovo governo dovrà poi promulgare, in questo momento resta desiderata. Senti, altri fallimenti dell'anno, che cosa avete messo in classifica? Potete poi vederli, leggerli su dday.it. Ha fatto molto scalpore la questione delle mappe di Apple. Ecco, questo se ne è parlato molto, perché dopo tanto tempo, tanta collaborazione con Google, Apple, mascherando tutto come una decisione assolutamente autonoma, ma doveva a un certo punto smarcarsi da Google, cui chiaramente sta diventando un competitor importante, anzi il competitor con Android, quindi ha rinunciato a inserire nel suo sistema operativo, nella sua ultima versione di iOS 6 appunto, le mappe di Google Maps come applicazione nativa, sostituendole con le mappe di Apple. Ovviamente le mappe, quindi un discorso legato alla ripresa fotografica di tutto il territorio del globo, è un lavoro che richiede molto tempo, è stato fatto forse un po' velocemente, ma era inevitabile. Il passaggio non è stato indolore, cioè in questo caso Apple ha sempre molto attenta ai dettagli in tutta la sua storia quantomeno recente, questa volta ha prestato proprio il fianco a critiche di ogni tipo, e sono cominciati a comparire sulla rete i casi più clamorosi di fiumi che scomparivano, di ferrovie che si sotterravano, di autostrade che finivano in acqua e cose di questo tipo, e al di là del fatto che poi effettivamente il livello di servizio, di qualità delle mappe di Google era migliore. Google ha tenuto Apple sul tegamino per qualche mese, no? L'ha fatta friggere a fuoco neanche lento, direi a fuoco vivace, e adesso da un paio di settimane ha lanciato la propria app, quindi nativa per le mappe per ambiente iOS, e così i possessori di iPad e iPhone adesso possono scegliere se continuare con le mappe di Apple che stanno via via ovviamente migliorando, oppure tornare alle vecchie mappe di Google che erano scomparse con questo aggiornamento. Questo ha fatto molto esatto. chiacchierare e ci ha fatto anche capire quanto i prodotti siano sempre meno hardware e sempre più software. Sì. Cioè lo stesso telefono funzionava benissimo con delle mappe di un certo tipo il giorno prima, fatto l'aggiornamento software di colpo non funziona più. Esatto. Dunque, a proposito di fallimenti, te ne cito uno io, poi questo è mondiale, internazionale, perché parliamo di Facebook. Quest'anno è stato l'anno della quotazione in borsa di Facebook, quotato il 17 maggio alla borsa di New York a 38 euro, no, dollari ad azione, valutazione, pensate, la più alta mai raggiunta da un'azienda allo sbarco in borsa, 104 miliardi di dollari. Allora, 38 dollari, venerdì i titoli valevano 25,91, quindi possiamo metterlo tra gli epic fail. Sì, anche se è già buono, perché aveva dimezzato praticamente dopo un giorno. Oh, attenzione, vista però da quelli che hanno incassato i soldi, non è stato un grande fail. No, assolutamente. Ne abbiamo però uno locale, perché ricorderete il famoso Volunia. Volunia, c'è Volunia. Stata grossa polemica, anche perché noi uscimmo subito con un pezzo dicendo che le premesse e anche la presentazione di Volunia non ci aveva convinto. Era un motore di ricerca che voleva essere non tanto alternativo a Google, è difficile oggi proporsi come alternativi a Google, ma comunque migliorativo in termini quantomeno di esperienza di navigazione, perché avrebbe coinvolto direttamente anche gli altri utenti, quindi avremmo potuto vedere quasi su una mappa gli utenti che migravano da un sito all'altro, vedendo come quasi come in una città, no? Tutte le masse muoversi verso i punti più interessanti, quindi aiutarci nella nostra città della ricerca, diciamo, a trovare i contenuti migliori. Ecco, sì. Il prodotto era sin dalle prime schermate assolutamente artigianale. Questo non è più concesso in un mondo che oramai è così centrale e importante. Ha un progetto di sviluppo come un motore di ricerca, lavorano centinaia o migliaia di sviluppatori. Questo era un progetto invece realizzato insieme all'università università italiana e sicuramente un gruppo di ricerca molto più piccolo e molto meno finanziato. È il web, diciamo, dei pionieri è probabilmente finito. C'è ancora spazio per i piccoli sviluppatori nel mondo delle app, ma non più forse nel mondo del web, che richiede. Devo dire che noi non abbiamo fatto né l'una né l'altra, né abbiamo sponsorizzato né abbiamo criticato subito. Avevo promesso agli ascoltatori che avrei invitato Marchiori, che è stata una delle anime tecnologiche dietro a Volunia. Poi ci siamo un po' persi, anche perché Marchiori non piace molto parlare alla radio, allora insomma ci siamo un po' persi. Chissà, magari se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci ritroveremo. Dunque, a proposito del 2012, sicuramente parole che abbiamo sentito nominare forse più che negli anni passati, ma non sono sicuramente parole che sono nate nel 2012, big data, cloud, se ne è parlato un sacco, ne riparleremo sicuramente, e anche open data, che è open data, però tradotto un po' a metà, open però data detto alla latina. Sicuramente se ne è parlato, poi qualche cosa è entrata anche nei provvedimenti del governo a proposito di dati aperti della pubblica amministrazione. È stato l'anno in cui sono terminati gli indirizzi IPv4 e stiamo passando all'IPv6, ma questa è una cosa un po' da tecnici. Voi che cosa avete messo in classifica? Beh, noi abbiamo inserito anche il concetto di smartwatch, di cui si è parlato moltissimo. Ah, sì, che tutti l'aspettavano, ma adesso non gliene frega niente a nessuno. A parte che non ci sono neanche tutti quelli che sono stati promessi, nel senso che ci sono alcuni progetti che sono stati esposti sulla rete, molti sono partiti anche con una logica di raccolta fondi su web, addirittura per lo sviluppo, altri invece attività imprenditoriali. Adesso ne facciamo uno anche io e Cantadori. Io e Fabio Cantadori annunciamo uno smartwatch e cominciamo però dalla raccolta fondi sul web. Dopodiché vediamo. Attenzione che Kobayashi, pilota di Formula 1 che non parteciperà al prossimo campionato di Formula 1, però con questa storia della raccolta fondi, del fundraising su internet, ha raccolto 8 milioni di dollari Molti si chiedono che cosa se ne fa. Lui ha detto che li tiene per il prossimo campionato, però vediamo. Beh, se glielo fanno fare. Torniamo agli smartwatch. Ecco, gli smartwatch sono una categoria di prodotti che dovrebbero affiancare il telefono, quindi non sostituire, attenzione, affiancare lo smartphone, che è insostituibile almeno in questo momento, e avere in remoto al polso, oltre l'ora, perché questo è fondamentale per un watch, ma anche tutte le altre informazioni che arrivano dal telefono e quindi che si possono più o meno configurare. In realtà quello che si è visto è che i prodotti, anche quelli meglio riusciti, sono molto macchinosi nell'utilizzo. E soprattutto, parliamoci chiaro, come uno smartphone probabilmente vanno ricaricati tutte le sere. Allora già è noioso ricaricare tutte le sere uno smartphone, pensare di dover ricaricare anche l'orologio onestamente diventa molto complicato. Epic fail numero uno quasi, eh? Questo qua diciamo che gli smartwatch, sempre che ecco, non venga, arrivi uno smartwatch che sia pensato espressamente dai produttori dei sistemi operativi, quindi da Apple o da Google o da Microsoft in questo caso, no? Sì, e quindi sia molto integrato col sistema operativo per avere delle informazioni assolutamente adeguate, non soltanto quelle che il protocollo Bluetooth offre di standard, perché queste, cioè poi gli smartphone di oggi sono basati soltanto sulla comunicazione Bluetooth standard, quindi il viva voce e qualche piccola altra informazione legata alla... Allora te ne cito uno io che non ho visto su D-Day. Ecco. DVB-T2. Ah, DVB-T2, sì, non lo considero neanche un fail perché... In realtà non è mai esistito. No, cioè non c'è stata una vera così, sensibilità da parte dell'utenza che stesse accadendo qualcosa, tranne quando il governo ha inserito in una pagina del decreto sviluppo sbaglio, credo, sì, adesso non vorrei sbagliare, ma comunque ha inserito l'obbligo dal 2015 per tutti i TV in vendita di integrare anche un tuner di DVB-T2. Sì, perché stiamo parlando di digitale terrestre, della digitale versione terrestre. Numero 2. Sì, vabbè, un obbligo inserito che è stato praticamente interpretato da alcune pezzi del mercato, soprattutto quelli che hanno più interessati perché magari avevano un TV di DVB-T2, è stato interpretato come il DVB-T2 diventa obbligatorio e tutti dovranno passare al DVB-T2, che vorrebbe dire, lo diciamo in maniera, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, praticamente buttare via tutti i decoder e tutti i tuner integrati nei TV DVB-T e basta, se si passasse a delle nuove trasmissioni in un nuovo standard, cioè fare un nuovo switch off. Io credo che non ci siano le mai condizioni, e più che altro ci sarà uno switch off naturale dell'etere verso magari sistemi di distribuzione più legati allo streaming o al netcasting. Esatto. C'è un nostro ascoltatore che cita Siri. Allora, ufficialmente Siri è stato lanciato alla fine del 2011, ma è vero che la grande diffusione di Siri sui sistemi Apple è arrivata con la versione numero 6 del sistema operativo. Soprattutto è arrivata la versione in italiano, perché prima non parlava italiano. Quindi per noi è arrivata nel 2012. Esatto, benissimo. È stato un bel giochino, tutti abbiamo chiesto a Siri, abbiamo fatto un po' di domande. Aspettiamo la versione nuova. Direi che nell'uso pratico, parlo almeno personalmente, Siri è un piccolo fail. È stato dimenticato. Esatto. Non la dettatura invece, non il riconoscimento vocale, questo invece che è mezzo Siri, cioè soltanto la parte del riconoscimento vocale, questo è molto utile. Bene, ci risentiamo tra un minuto e mezzo, un po' di pubblicità, questo è 2024. 2024. Che cosa è successo nel 2012 e che cosa accadrà nel 2013? Tra le altre cose che abbiamo ricordato a proposito dell'anno che ormai ci stiamo lasciando alle spalle, questo è stato l'anno in cui, pensate, Telecom Italia ha venduto Virgilio, lo ha venduto a Wind Infostrada, ma l'azienda si chiama Wind, azienda che appartiene ad un gruppo russo, e quindi Virgilio viene integrato all'interno dell'offerta che ha già libero.it, due grandi nomi della rete internet italiana. È stato anche l'anno della grandissima battaglia legale, soprattutto nel mese di agosto si è concentrato un processo che passerà sicuramente alla storia, tra la Apple e Samsung. Gianfranco, ne avete parlato anche voi su D-Day per tanto tempo. Assolutamente, con questa sì. giudice anche molto dura, cattiva, ma anche un po' simpatica. Sì, beh, poi con tutte quelle immagini tipiche americane in cui si vede, dei disegni, no, disegni, esatto, della corte che stabilisce e promulga le sentenze. Beh, diciamo che è stata una lotta che non si è tenuta solo negli Stati Uniti, si è tenuta anche in Corea, si è tenuta anche in Europa, su diversi fronti, su molte questioni, non si sa più neanche chi è che ha incominciato per prima. Sì, la grande battaglia globale. Sì, e quindi diciamo hanno litigato su chi avesse inventato cosa. Adesso stanno arrivando delle notizie dove alcuni brevetti Apple sarebbero non recepiti e non recepibili più dal sistema di brevetti statunitense, che è uno anche dei più tra l'altro permissivi da questo punto di vista, nel senso che permette di depositare quasi tutto, anche un'idea, ecco, quindi questo potrebbe ancora cambiare le carte in gioco. Il succo è che tra i due colossi di certo non corre buon sangue, e questo crea una situazione di stallo. Una situazione di stallo che in pochi hanno analizzato, a mio avviso, in questo senso, sul fronte delle TV. Perché tantissimi, tante volte ho visto addirittura, si vedono su internet dei finti prototipi, dei rendering della famosa Apple TV, intesa proprio come televisione a marchio Apple, televisore. Noi avevamo già appunto detto che non sarebbe mai uscito, almeno finché non si trova una via d'uscita a questo dilemma, e infatti non è uscita, e che non uscirà sicuramente nel breve termine, perché Apple non ha alcun interesse e intenzione di buttarsi in un business che in questo momento è giudicato non profittevole, e anzi dove ci sono richieste delle masse critiche incredibili come quello del TV. Però Apple ha voglia che i suoi device siano visibili sulla TV. Apple ha già uno stand, si chiama AirPlay, che permette di remotare iPhone e iPad su TV, e questo viene fatto attraverso l'Apple TV, che esiste, che è uno scatolino, però è un set-top box. Anche Google vuole lanciare il suo set-top box, ma non c'è dubbio che il televisore del futuro, avrà all'interno la logica per poter replicare lo schermo dei device. Quindi se io ho il mio tablet sulle gambe, posso vedere, se voglio condividere con gli amici, il contenuto di quel tablet sullo schermo. Nel 2013 vedremo arrivare Miracast, che è lo standard di Android per questo effetto mirror, diciamo, questa duplicazione dello schermo su TV, e ci aspettiamo che escano dei TV che integrino il sistema Miracast, per cui già nativamente il TV collegato alla rete permette di essere collegato al device via Wi-Fi. La stessa cosa potrebbe accadere con Apple? Sì, perché no? Apple potrebbe decidere di licenziare AirPlay ai produttori di TV, ma per come è giustamente abituata a pensare Apple da leader, probabilmente dovrebbe farlo con il leader produttore dei TV. E chi è il leader produttore dei TV? È proprio Samsung. E quindi è il motivo per cui questo AirPlay non viene ancora licenziato sui TV, resta appannaggio di Apple TV, inteso come set-top box, che costa €99, $99, insomma costa poco, però comunque è uno scatolino in più, con un telecomando in più, con un collegamento HDMI in più. Non potrebbe farlo con Sony? Potrebbe potenzialmente farlo con Sony, però in questo momento le quote di mercato di Samsung, sia in Italia, ma che conta poco l'Italia, ma a livello globale, sono talmente importanti che sarebbe sicuramente un lancio probabilmente non da Apple. Cioè, se dovesse mai arrivare una cosa su questo fronte, dovrebbe arrivare con un leader. Allora, o Apple e Samsung fanno la pace, scenario possibile ma poco probabile, o cambiano radicalmente gli assetti delle leadership nel mercato TV, e anche questo nel giro di sicuramente nel 2013 non dunque accadrà. Visto che abbiamo citato Samsung e abbiamo citato anche Sony, io ti dico una cosa di Samsung, tu me ne dici una di Sony. Allora, questo non è un epic fail, anzi questo è stato un grande successo. Samsung quest'anno è diventato il primo produttore di telefonini. Stiamo parlando di telefonini in generale, quindi non solo di smartphone, ma è un risultato molto importante perché per tanti anni il primo produttore mondiale di telefonini è stata Nokia, che è ancora il secondo produttore, perché pensate in Asia, in Africa e anche direi in Europa quanti telefoni non smartphone vengono ancora oggi venduti. Comunque diventare il primo e il più importante produttore di telefonini è sicuramente un risultato anche di immagine molto importante. Sony ha lanciato un sacco di prodotti che non hanno fatto tantissimo successo, forse quello che ha proprio fatto meno successo di tutti, che cos'è stato? Una console da gioco. Sì, è stata, diciamo, che aveva fatto un poco successo, diciamo, non ha replicato il successo dei suoi predecessori, che parliamo di PS Vita. PS Vita, che è una console portatile, sicuramente bellissima come oggetto, chi è appassionato di game e ci ha giocato si è trovato sicuramente bene, ma arriva in un momento in cui le abitudini degli utenti e dei consumatori sono cambiate. Innanzitutto il gioco in mobilità è fatto con lo smartphone. Non serve più una console game portatile, come potrei dire non serve più una videocamera, non serve più una fotocamera compatta, non serve più un navigatore satellitare separato, cioè non serve più un digital audio player. Cioè gli smartphone hanno sostituito integralmente molte categorie di prodotto. Una di queste è la console portatile. Purtroppo è arrivata PS Vita con un modello di business, diciamo, tradizionale, con giochi ancora molto costosi, sicuramente più costosi dei giochi app per gli smartphone, e è chiaro che è un modello che sicuramente ha convinto i gamer più incalliti, ma non certo la grande massa del mercato. Quindi il successo di PSP dell'epoca non si è visto. C'è chi dice, i maligni, anche perché PSP era facilmente craccabile e invece PS Vita un po' meno, però questo allora, non ho elementi certi tra i fallimenti che avete citato voi, però questo fammelo dire a me perché mi diverte, anche perché io non so, a volte quelli del marketing proprio non ci azzeccano. Allora, Panasonic ha lanciato uno smartphone che con caratteristiche eccezionali, che andava sott'acqua, che si chiama, cioè si chiama ancora, perché in alcune parti del mondo viene ancora venduto, si chiama Eluga. Se avessero mandato una mail magari avremmo potuto consigliare di cambiare nome. Non ha fatto un grande successo e dopo pochi mesi Panasonic ha deciso di ritirarsi nuovamente dal mercato europeo. Un'altra cosa in pochi minuti, Gianfranco, gli Ultrabook, un'altra cosa che non è che è proprio funzionato. Devo dire che sono quasi più i fallimenti dei successi quest'anno. Sì, beh, diciamo che è stato un bel numero. È stato, è stato un anno in cui abbiamo forse preparato il terreno per un 2013 eccellente, in cui però bisognava fare delle sperimentazioni, bisognava trovare nuovi form factor. Abbiamo visto tanti quei form factor, soprattutto col Windows, col lancio di Windows 8, che non tutti avranno successo. Alcuni sono bizzarri, tastiere che si staccano, display che si ripiegano su se stessi, cioè cose molto, molto particolari. Gli Ultrabook sono stati una categoria inventata molto bene, congegnata molto bene da Intel per riqualificare i netbook, scusate, i notebook, quindi i PC portati di fascia alta, mettendo delle categorie, dei paletti molto stringenti sulle caratteristiche tecniche di queste macchine. Quindi macchine che dovevano avere un disco allo stato solido, molto leggere, super portatili, molto sottili, eccetera, eccetera. Direi praticamente un anti MacBook Air, ecco, se volessimo proprio identificarlo, perché le caratteristiche erano comunque molto simili a delle cose offerte dal MacBook Air, forse anzi qualcosa in più. Purtroppo quello che si è scoperto è che per fare una macchina così o farne diverse su numeri non ancora importanti, beh, i prezzi finali erano prezzi spesso doppi rispetto agli altri notebook, quindi superiori ai 1000 euro. Questo ha fatto sì che la categoria degli Ultrabook non decollasse. Per farla decollare, con tanto investimento di marketing che è stato fatto, Intel ha incominciato ad allargare le maglie e ad accettare anche macchine da un paio di chili, anche macchine da 15 pollici, anche macchine con dischi ibridi, insomma situazioni che poi hanno un po' snaturato quello che doveva essere il concetto iniziale di Ultrabook. E già adesso, con i nuovi form factor, i tablet, eccetera, eccetera, si incomincia a parlare di un notebook sul viale del tramonto, quindi non si sa se questi ultrabook sono arrivati troppo tardi oppure no. Di certo noi non capiamo, e io lo metto come un mio grande punto interrogativo per il 2013, è la presenza sul mercato in questo momento e sempre più di notebook con lo schermo touch. Credo che siano un ibrido non necessario. Chi ha un notebook non ha probabilmente necessità o voglia di toccare lo schermo. Toccare, usare come touch uno schermo di un notebook probabilmente spinge il display verso il basso e quindi non è neanche ergonomico. Credo che sia una voglia di avere uno schermo touch a tutti i costi, perché i tablet sono molto più sexy forse di quanto non siano i tradizionali notebook. Sì. Allora, cito anche l'arrivo, dopo averlo annunciato per mesi e mesi e mesi, di Windows 8 e Windows RT e anche di Windows Phone 8, quindi Microsoft ha rinnovato tutta la famiglia con questa nuova interfaccia grafica, tutta la famiglia dei sistemi operativi. A questo punto però alziamo le mani, diciamo, non sappiamo ancora se è un grande successo o un grande insuccesso, dovremmo aspettare almeno i primi dati del trimestre, quindi nei primi mesi del prossimo anno. Sicuramente è stata una rivoluzione che potrebbe anche costare la poltrona, la scrivania e tutto il resto, lo stipendio eccetera eccetera, a Steve Ballmer. Ci sono molti che dicono sarebbe meglio che Steve Ballmer, che è l'amministratore delegato di Microsoft, se ne andasse. Non ho opinioni forti in questo senso. Sulla mia macchina di produzione c'è, cioè, in questo momento Windows 8, quella che uso tutti i giorni per lavorare. Non è una macchina touch, non trovo grandi differenze né in meglio né in peggio rispetto a Windows 7. Ecco, sì. Quindi probabilmente su altri form factor, esatto, invece questa unificazione anche dell'interfaccia potrebbe essere vincente. Sicuramente, ma questo l'abbiamo detto più volte, Windows Phone per l'ambiente smartphone è sicuramente un prodotto innovativo, molto semplice, e io dico per certi versi e per certi utenti forse è meglio addirittura che Android, che in alcuni momenti è un po' troppo complicato. Sì, è verissimo, si possono fare tantissime cose, ma per certi utenti è meglio che non si possano fare quelle cose. Sì, assolutamente, meglio. L'interfaccia di Windows Phone è assolutamente consistente, come dicono, esatto, consistent, cioè coerente, e quindi non ci si perde mai, è molto facile da usare anche per un utente non eccessivamente evoluto. Io ad alcune ragazze che chiedono che cosa mi consigli, devo dire che Windows Phone, visto che si trovano anche dei prezzi abbastanza abbordabili, non lo trovo male. Per uno che magari non ha molte competenze tecniche, si incasina facilmente con gli smartphone. Nella fine di quest'anno si sono visti alcuni prezzi impressionanti. Sì. Perché erano molto bassi sui modelli non Windows Phone, diciamo 8 nuova versione, ma 7.5, tipo il Nokia 800, a qualcosa di simile a 150 euro, quindi a un telefono da 600 euro, esatto, quindi assolutamente adesso, convincenti sia per tecnologia che per prezzo. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete su Radio 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo, questa è l'ultima parte di 2024. Abbiamo parlato di quello che ci ha lasciato il 2012. A questo punto parliamo anche di quello che vedremo con buona probabilità nel corso del 2013. Allora, abbiamo citato gli OLED che non sono mai arrivati. Io ricordo che, andando a guardare l'archivio della nostra trasmissione, a febbraio del 2012 scrivevamo: tra pochi mesi arriveranno sugli scaffali nuovi TV OLED. Ma abbiamo detto durante questa trasmissione che poi questo non è avvenuto per tutta una serie di motivi, alcuni chiari, alcuni meno chiari. Gianfranco, a proposito di TV, quindi di televisori, che cosa possiamo aspettarci almeno nella prima parte dell'anno? Sicuramente confermiamo l'OLED. E questo... Ah, quindi esce, prima o poi esce. No, esce. Anzi, mi dicono che proprio siano previsti già gli ordini da parte dei rivenditori per marzo. Quindi per il prossimo marzo noi dovremmo vedere già nei negozi OLED anche di tagli più piccoli rispetto ai 55 che si erano visti. Questo però, siccome poi il podcast resta lì scaricabile a smentirci clamorosamente, io ovviamente dico dovrebbe, uso così un condizionale di cautela, però esatto, mi dicono una delle che, regole giornalistiche da seguire, sempre usare i condizionali, mi dicono che così dovrebbe essere. E poi il 4K. Il 4K cos'è, è questo 4K? Col il nome di 4K viene indicato un nuovo livello di risoluzione dei pannelli. Noi siamo abituati adesso ad avere TV Full HD. Full HD è 1920x1080. E 4K è una risoluzione di 4 volte il Full HD. Come avere 4 TV Full HD messi a matrice, 2x2, ecco, evidentemente. Quindi è una risoluzione assolutamente clamorosa. Mi viene da dire quasi fin troppo, no? Infatti. Perché noi abbiamo detto più volte che per un TV Full HD può essere visto fino a 2 volte la larghezza dello schermo come distanza di visione, quindi un 46 pollici Full HD possiamo vederlo, che è largo 1 metro, 2 metri, esatto, possiamo stare a 2 metri dal TV senza vedere il pixel. Esatto, quindi se capisco bene, fino a 2 metri apprezziamo l'alta definizione, dopodiché sì. Dopodiché non ce ne rischiamo quasi di più. No, allora, se ci allontaniamo, incominciamo a il nostro occhio, anche i migliori occhi migliori di noi, quelli con la vista migliore, incominciano a non vedere più questa risoluzione, o comunque a vederne una quantità inferiore. Ecco, se ci avvicinassimo invece di più, potremmo vedere i pixel, i singoli pixel, e quindi avere un effetto sicuramente fastidioso. I TV 4K permetterebbero di avvicinarsi ancora di più, oppure, visto che non è che abbiamo il divano sulle rotelle, lo spostiamo avanti e indietro a seconda del TV che abbiamo, di avere TV ancora più grandi con una qualità migliore senza permetterci di vedere il pixel. Certo è che uno dice sì, ma se io ho un TV 4K, come usciranno nel corso del 2013 e diversi dovrebbero modelli, uscire. No, questo qui è abbastanza sicuri, certo, okay. Quello Sony è già uscito, tanto per intenderci, quindi su questo andiamo abbastanza tranquilli, in un formato importante, 84 pollici, quindi pare che a Las Vegas ne vedremo 100 pollici. 84 pollici cosa sono? 1,80 m? 2 metri? 84 pollici, facciamo il conto velocemente, moltiplicato per 2,56 sono più di 2 metri, sì. Di diagonale. Sì, di diagonale. Certo. Di diagonale. Di larghezza sono 2 metri, sì, quasi. Ma sono 4,42 pollici praticamente, sì, sì. 4,42 pollici messi insieme. Ecco, questo vorrebbe dire potersi mettere ancora più vicino, però vorrebbe dire anche avere dei contenuti in 4K. Contenuti in 4K in questo momento non ci sono, non tanto perché non ci siano tutte le scansioni delle pellicole cinematografiche, da tempo vengono fatte in 4K, le riprese dei film girati in digitale. Non ci sono i supporti. Non c'è un sistema di distribuzione sì, in questo momento. Dovrebbero avere dei file che pesano troppi giga. Negli Stati Uniti, per esempio, Sony sta vendendo il TV 4K 84 pollici di cui parlavamo prima con un player proprietario che funziona solo con quel TV, che eroga un certo quantitativo di film, Sony Pictures evidentemente, in 4K, ancora un po' poco. Parliamo di cose normali, anche perché, scusa, mi confermi che allora, per quanto riguarda le trasmissioni in diretta, comunque distribuite nell'etere via satellite, l'alta definizione è una cosa che non è sicuramente sulla maggior parte dei canali. No, è soltanto nella pay TV, potremmo dire. Esatto. Poi costa soldi, quindi... Comunque da qualche giorno c'è da dire, diciamolo, almeno chiudiamo questo 2012 bene, la Rai ha incominciato a inserire nel proprio loghino che indica Rai 1, per esempio, quando c'è il simulcast, la trasmissione in HD sul 501... scrive HD su 501. Beh, questa è una che buona già cosa, è una finalmente buona. Informa sì, che sì, su 501 molte volte si possono vedere i canali in HD. Certo, poi piange il cuore perché poi vediamo i TG invece che sono ancora prodotti e montati in 4/3. E quindi siamo ancora altro che alta definizione, sì, sì. Non siamo neanche widescreen. Poi anche perché i Blu-ray che permetterebbero di vedere contenuti in HD non sono poi così diffusi, mi sembra. È un peccato, è un peccato perché tutti pensano che sia Full HD uguale al Full HD televisivo che si possono vedere magari sui canali pay TV. In pochi ricordano che il broadcasting Full HD è 1080 I interlacciato. Quindi in realtà non entriamo adesso nei dettagli tecnici, ma a metà risoluzione, semplificando. Mentre il Full HD del Blu-ray è 1080p Progressive Scan e quindi a piena risoluzione. E quindi anche in questo caso il Blu-ray andrebbe riconsiderato, anche in considerazione del fatto che nei cestoni dei grandi centri commerciali ormai i Blu-ray si trovano a prezzi che sono ben inferiori al prezzo del biglietto per il cinema per due persone, tanto per intenderci. Quindi sicuramente per tutta la famiglia può convenire comprarsi, neanche più noleggiare, comprarsi un bel Blu-ray piuttosto che andare al cinema. Allora cito due tecnologie, una l'abbiamo già citata ma la ripeto, due tecnologie che sicuramente vedremo espandersi e diventare sempre più popolari nel corso del 2013. Allora, abbiamo detto il 4G, quindi la nuova telefonia di quarta generazione che sicuramente nel corso del 2013, forse non nei primissimi mesi, ma vedremo espandersi nei prossimi mesi, a metà dell'anno. Ecco, poi NFC, probabilmente nella seconda metà dell'anno vedremo molti più servizi, qualcosa è già nato, quindi questi sistemi che primo fra tutti permetteranno di pagare anche con lo smartphone, cioè sostituire la nostra carta di credito e tutte le altre carte con lo smartphone. Poi si possono fare mille altre cose, ad esempio gli abbonamenti dei mezzi pubblici, eccetera, eccetera. Queste due tecnologie le vedremo sicuramente nel corso del 2013. Abbiamo qualcos'altro, Gianfranco? Beh, tra i più attesi, diciamo, sicuramente il Samsung Galaxy S4 arriverà. Quindi ah beh, se ci mettiamo a fare la lista degli smartphone attesi, però su smartphone e tablet, no, smartphone qualcosa tablet di rivoluzionario tutti, no? In realtà sono tutti refresh, cioè sicuramente l'iPad di quinta generazione, un iPad mini di seconda generazione, l'iPhone 5S, no? Come ormai è tradizione, uscirà il refresh, ma non grosse rivoluzioni se non in termini di prestazioni di processori, ammesso che questi processori super evoluti 8 core eccetera eccetera servano veramente o non stiano diventando un motivo di marketing per poter proporre un nuovo modello. Io credo che gli smartphone di oggi abbiano nell'hardware delle risorse incredibili e nel software forse alcuni soprattutto dei margini di miglioramento incredibili, e forse lì bisognerebbe lavorare di più. Bene, grazie a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Noi abbiamo fatto una carrellata di quello che è successo nel corso del 2012 e abbiamo anche accennato ad alcune tecnologie che vedremo nel corso del 2013. Alcune le vedremo presto nei primi mesi, altre le cominceremo a vedere nella seconda parte dell'anno. Bene, chiudiamo qui questa puntata di 2024. Se non ci risentiamo in altri appuntamenti, vi auguriamo un buon anno da tutta la nostra redazione, la nostra piccola redazione. Grazie come sempre ai nostri tecnici che ci aiutano per andare in onda tutte le settimane, grazie ad Anita Panizza. Ci potete raggiungere scrivendo a 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Twitter e anche Facebook. Io sono Enrico Pagliarini, 2024 vi aspetta normalmente il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 17, oppure anche su internet nella nostra versione podcast o in vari appuntamenti in questi giorni di feste. L'augurio di un buon ascolto con i nostri programmi e anche di un buon anno con Radio 24. 2024.